America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. What follows is my 100-day action plan to make America great again. It's a contract between Donald J. Trump and the American voter. La promessa di Donald Trump per i primi 100 giorni. Passerò all'azione, cambierò il volto di questo paese, l'America sarà grande di nuovo. I think it's got to be kept in context, and I think that's there is sort of this artificial number that gets thrown out. Ecco, quasi 100 giorni dopo avete sentito invece il portavoce Spicer che dice: "Ma no, i 100 giorni sono un traguardo artificiale, è inutile fare riferimento a 100 giorni". E in effetti in questi 100 giorni è successo di tutto. Domani sabato sarà il 100° giorno dell'amministrazione Trump. Come ho detto in altre occasioni, sembra che sia passato un anno. Facciamo una rapida carrellata di alcune delle cose che sono successe in questi 100 giorni. The FBI is investigating the Russian government's efforts to interfere in the 2016 presidential election. Comey dell'FBI dice: l'indagine è in corso, e l'indagine sulle interferenze russe sulle elezioni americane è una bomba esplosiva a Washington. Trump nega che possano esserci state interferenze. Trump che parla di fake news, lo scontro coi media. Non si era mai visto un presidente americano attaccare i media in modo così diretto. Fake news, dice il presidente. Sono notizie false quelle che vi danno. Federal judges issued rulings that for now halt major parts of President Trump's just announced ban on mostly Muslim countries. Decreto sull'immigrazione, beh, questo è stato un tormentone, è stato poi bloccato da vari giudici. Ricorderete, Donald Trump, in realtà senza che ci fossero davvero delle ragioni precise dal punto di vista del rischio, voleva impedire l'arrivo di immigrati da 7 paesi islamici. And I promise you that I will do all my powers permit to be a faithful servant of the Constitution and laws. Primo successo di Donald Trump, la conferma di Neil Gorsuch alla Corte Suprema. Non è stata una conferma facile, ma alla fine ha tirato un sospiro di sollievo, perché su altri fronti nessuna delle iniziative proposte dal presidente riusciva a passare. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield. In Syria. Ecco, Trump che cambia, annuncia l'attacco in Siria. È una svolta chiave per l'amministrazione Trump, che comincia ad ascoltare i grown-ups, gli uomini seri, i generali che conoscono i fatti del mondo nella sua amministrazione. I express the view that the current state of US-Russia relations is at a low point. In parallelo parte la rottura con la Russia, ricordate la luna di miele all'inizio dell'amministrazione. Eppure qui sentiamo Tillerson, segretario di Stato, che dice: le relazioni con Mosca sono ai minimi storici. Poche settimane prima sembrava che i due, Trump e Putin, potessero andare a nozze. This is going to be the biggest tax cut and the largest tax reform in the history of our country. Mnuchin, arriviamo ai nostri giorni, il più grande taglio delle tasse nella storia USA. Forse non lo è, ma è sicuramente un taglio delle tasse molto interessante. Insomma, questa carrellata vi dà l'idea di questi 100 giorni di presidenza americana, 100 giorni lunghissimi, intensi, con alti e bassi, un vero e proprio otto volante. Su questo credo nessuno abbia dubbio. C'è stato poi il gran finale, appunto l'annuncio l'altro giorno di proposte per una radicale riforma fiscale, e poi la rinuncia al finanziamento sul muro col Messico per evitare un voto negativo sul bilancio. Insomma, in questi 100 giorni è successo di tutto, ma questi ultimi annunci, la riforma fiscale e la rinuncia al finanziamento del muro col Messico, sono entrambi ingredienti di questa straordinaria curva di apprendimento seguita da Donald Trump per fare quel salto impossibile, che a tutti poteva sembrare impossibile, a lui per primo, da immobiliarista newyorkese, peraltro anche di secondo livello, a presidente degli Stati Uniti d'America. Ecco, una curva d'apprendimento questa che è cresciuta fra mille turbolenze, giravolte, provocazioni, irritazioni, sconfitte politiche, successi personali, tutto condito da centinaia di tweet. Una learning curve, come si dice in America, una curva di apprendimento appunto essenziale, che alla fine ha reso possibile l'unica, vera, importante virata di Trump nella direzione della continuità, e cioè per la leadership americana nel mondo, del multilateralismo. La NATO non è più obsoleta, e contro le interferenze di Vladimir Putin, e per un'Europa forte. Ecco, quella di Trump, devo dire, non è stata una virata facile, perché all'inizio era molto influenzato dalla sua squadra elettorale, Stephen Bannon e i suoi in particolare. Però devo dire che mentre scriveva su Twitter i suoi messaggi incendiari, poi seguiva Trump, così, perché poi è molto sornione, molto intelligente, una battaglia in corso alla Casa Bianca che si giocava fra quattro squadre, quella dei rivoluzionari, Bannon, della famiglia, Ivanka, Kushner, dei militari, i vari generali al Pentagono, Consiglio per la Sicurezza Nazionale, eccetera, e l'establishment del mondo degli affari, in particolare con capo per la sicurezza economica e ovviamente Steve Mnuchin, segretario al Tesoro. I due, tra l'altro, lavoravano insieme da Goldman Sachs. Second line of work is what I refer to as economic nationalism. The third, broadly, is what is deconstruction of the administrative state. Ecco, il messaggio di partenza era quello che arrivava dai nazionalisti populisti guidati da Bannon. E questo gruppetto ha plasmato il Trump scomposto, anti-Europa, anti-NATO, pro-Putin, anti-Cina, anti-immigrazione, come dire, della prima ora. E le altre due squadre sono arrivate un po' più tardi, ma si sono poi messe al lavoro per, tra virgolette, salvare all'America. Ci sono riusciti? Beh, secondo me sì, perché vediamo quali erano queste squadre. Allora, intanto, ve l'ho detto, la prima era quella economica. Gary Cohn e Steve Mnuchin hanno convinto Trump che doveva tenere un occhio al mercato, che il mercato si fidava soltanto di misure serie e di una presa di posizione dell'America di leadership sul sistema multilaterale. Hanno lavorato in tandem e sono riusciti ad arrivare a un obiettivo molto preciso. L'ultimo, quello della proposta per la riforma fiscale. Sentiamo Jim Mattis. In response to the attack, our government began a deliberate process to recommend diplomatic and military options to the president. Ecco, Jim Mattis è un po' il leader della squadra che chiamo la squadra militare, fatta da tre ex generali, appunto Mattis al Dipartimento di Stato, HR McMaster al Consiglio per la Sicurezza Nazionale, John Kelly alla Sicurezza Interna, i tre aiutati da Rex Tillerson, un civile ben assortito, nominato al Dipartimento di Stato. Ecco, questi gruppetti, questi due gruppi soprattutto, quello economico e quello militare, hanno dimostrato a Trump che una caduta delle pietre angolari della sicurezza americana nel mondo, la NATO e l'Unione Europea, avrebbero avvantaggiato soltanto una persona, Vladimir Putin. E Trump ha cominciato ad ascoltare. La terza squadra chiave, la famiglia, non ci ha messo molto a capire che i professionisti avrebbero fatto l'interesse del loro patriarca molto di più di quanto lo potessero fare Bannon e compagni. E dunque, con una vittoria per 3-1, la linea è cambiata. Dobbiamo chiederci, sarà una linea di cambiamento duratura? E insomma, i sondaggi per Trump non sono buoni. Però questo cambiamento gli è servito. La borsa sta tirando e Trump, beh, Trump ha le spalle larghe. Dunque, guardando in avanti, che cosa succederà? Beh, c'è un elemento, secondo me, che può sfuggire ai più. Mnuchin, Cohn, persino il genero Kushner, vengono da simpatie democratiche. La mossa possibile per i prossimi 100 giorni? Beh, un passaggio al dialogo trasversale. Se vorrà una buona riforma fiscale, perché finora è una proposta, Trump avrà bisogno di un appoggio bipartisan. In questi 100 giorni ha anche imparato che il presidente propone, ma il Congresso dispone. La formazione, insomma, di un presidente a digiuno di politica procede, ma gli ultimi sviluppi ci dicono che il corso è alla fine, tra l'altro in coincidenza con le lauree a metà maggio alle università americane. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre nuove frontiere inesplorate. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Sharon Jones and the Dap Kings. Beh, non poteva che essere 100 Days and 100 Nights. 100 Days, 100 Nights, to know a man's heart. 100 Days, 100 Nights, to know a man's heart. And a little more before he knows it's wrong. You know a man can wait upon of a saint just so long. For a day comes when his true, his true Da New York è tutto, Mario Pretero vi saluta, vi augura un bel lungo weekend col 1° maggio e vi dà appuntamento a lunedì, festa del lavoro. goodbye and get going.